Non lo so. di questa nuova puntata del corso della quale vi proviziono un'intervista rilasciata al dottor Franco Percezione e ad otto scientifico ambasciato d'Italia in Europa. Seguiteci dunque dopo il prossimo stacco musicale. In tutti i sensi e quindi anche nel campo della cooperazione scientifico-tecnologica. Nel 2009 precedentemente l'egiziano della scienza e della tecnologia, adesso come risultato di quest'anno abbiamo identificato alcuni progetti che intenderemo portare avanti in 5 aree prioritarie. Queste aree sono la medicina, le tecnologie applicate ai beni culturali, le biotecnologie, le scienze agrarie, l'ambiente e infine le energie rinnovabili. L'anno di egiziano che è concluso, ma la cooperazione non finisce mai. Certo. E quindi il progetto più importante che viene eseguito in questi giorni è tra l'Egitto e l'Italia, soprattutto nel campo agrario. Nel campo delle scienze agrarie abbiamo pensato di portare in Egitto alcune nuove tecnologie per monitorare lo stato delle culture e delle piante, in particolare per monitorare in maniera preventiva la possibilità, la presenza di alcune malattie. Sto pensando per esempio alla malattia delle palme che sta diventando preoccupante per tutta l'area mediterranea. Stiamo pensando anche di monitorare la qualità delle acque, le cosiddette acque reflue, le acque che vengono dismesse, che spesso vengono usate per l'irrigazione e quindi vanno a finire poi sui terreni agricoli. Qual è la qualità di queste acque. Quindi in Italia sono sviluppate una serie di nuove tecnologie che possono darci delle indicazioni sulla qualità di tutto questo. I giornali hanno parlato che il sole d'Egitto verrà presto in Italia per sfruttare questo polo nei progetti di energie rinnovabili. Sì, questo è proprio un altro dei progetti più importanti. Stiamo mettendo in atto l'Agenzia Italiana per le Energie Rinnovabili, l'ENEA, ha brevettato alcune nuove tecnologie cosiddette di solare termodinamico concentrato. Questo è un tipo di energia solare che è diverso dal fotovoltaico e che è molto più promettente, nel senso che se riusciamo a realizzarla il costo dell'elettricità così prodotto sarebbe decisamente competitivo rispetto al petrolio, al carbone, eccetera. Questo sfrutta una tecnologia, adesso non voglio naturalmente entrare troppo nei dettagli, che l'Italia ha sviluppato e si ritiene che l'Egitto sia proprio il paese ideale per l'applicazione di questa nuova tecnologia. All'Italia? Sì, certamente il paese più vicino all'Italia, ma ovviamente è il paese dove il sole splende 365 giorni all'anno e qui si parla del cosiddetto Sun Belt, che con l'Egitto, tra i paesi nordafricani, che può giocare per lo sviluppo di una nuova rete elettrica di energia solare, chiaramente interessare anche vicini, la Libia, la Tunisia. La Tunisia c'è il programma di costruire una nuova rete di trasmissione di energia elettrica attraverso i canali di Sicilia, dalla Tunisia all'Italia. Quindi in effetti sarebbe un programma molto importante, perché questo programma l'Egitto che si è avanzato per così nell'Africa potrebbe sicuramente giocare un ruolo centrale. Ma nel caso di Cina, la cooperazione tra l'Egitto e l'Italia ha fatto un cambio di fama. Non so perché. Non so nemmeno io, perché la verità è la cooperazione nel campo medico tra l'Egitto è molto molto forte. Durante l'anno della scienza ci sono stati diversi congressi, in particolare su un problema molto sentito sia in Egitto che in Italia, che è quello delle malattie del fegato. Si è fatto veramente molto lavoro insieme e difatti uno dei progetti prioritari è quello di creare un centro di eccellenza italo-egiziano per lo studio e la cura delle malattie del fegato. Io sono molto ottimista che questo centro potrà essere progettato quest'anno nel 2010 e realizzato forse già nel 2011. La malattia del fegato in Italia è diffusa così come in Egitto? Non più, ma abbiamo avuto una storia simile. Anche noi all'inizio nel nostro paese, sto parlando forse ormai di 50 anni fa, se non forse ancora qualcosa di più, abbiamo fatto degli errori nel non curarci troppo dell'igiene e soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di siringhe, di trasfusioni, eccetera. Purtroppo queste malattie sono come una bomba d'orologeria, le prendi adesso e ti vengono fuori 10 anni dopo e te le porti per il resto della vita, quindi anche noi abbiamo subito le conseguenze di questo, abbiamo dovuto da un lato correre i ripari, adesso in Italia questa malattia è molto ridotta, però nonostante per parecchi anni e quindi anche in tempi recenti, anche adesso dobbiamo ancora curarci di questo problema che è nato. Quindi abbiamo accumulato molta esperienza, i medici italiani sono veramente tra i primi nel mondo, alcuni vaccini sono stati scoperti da medici italiani e pensiamo di poter trasferire queste conoscenze in Egitto per far fronte a questo che è chiaramente un problema molto grande in questo momento per l'Egitto. La ringrazio tanto signor Franco Bocelli e sono io che ringrazio lei per darmi l'opportunità di parlare con i vostri radioascoltatori e saluto nuovamente tutti quanti. Grazie, grazie mille. sono le 21 anni e le diffusioni della Repubblica di Egitto e le nuove notiziarie. Una nuova assemblea nazionale Pakistan hanno giurato a Islamabad fedeltà alla Repubblica, portando così a termine la transizione della parte del Pakistan nei 66 anni della sua indipendenza. Molto preso dall'Alto Sharif, il leader Pakistan, che la prossima settimana sarà incaricato di formare un nuovo leader, perché il Parlamento ha potuto suonare con il suo posto, che è stato dal generale al sabato. Sono 2020, ora non fai, lo sto ascoltando e non ti schiaccio. Thank you. Vaticano di Gesù, Maurizio Massari, ha garantito il relativo di qualsiasi investimento italiano dall'Egitto, sottolineando il supporto del suo paese all'Egitto perché passi questa difficile fase transitoria. L'Italia è il primo partner commerciale europeo in Egitto, con un volume di interscambio commerciale che ammonta a 5,2 miliardi di euro, cioè il 6% del totale del commercio iniziale con l'estero, ha messo in evidenza Massari nel corso della sua ultima riunione al Cairo con i membri dell'Egyptian Council. Gli investimenti italiani in Egitto sono stabili, concentrandosi in particolare nei campi di industria, del petrolio e del gas, ha proseguito il capo missione diplomatica italiana al Cairo. L'Egitto è un grande e importante paese con cui la cooperazione è in favore di tutte e due le parti. In termini di turismo, ha messo in evidenza l'ambasciatore italiano, l'Egitto è una delle destinazioni preferite dai turisti italiani, il cui numero in Egitto ha raggiunto la cifra di 1 milione nel 2010. Siamo ottimisti sul futuro dell'Egitto, nonostante la difficile situazione politica e alcuni problemi che sono le aziende italiane operanti in Egitto stesso, nel campo del cemento. Intendiamo allargare i nostri investimenti in alcuni settori, in particolare il trasporto, l'infrastruttura, l'agricoltura, l'energia e la formazione professionale, ha menzionato Massari. Egli ha rivelato che la terza fase del programma della conversione del debito, che ammonta a 100 milioni di dollari sul totale di 300 milioni, è già iniziata e dedicata al supporto della formazione professionale, agli alimentari, all'ambiente e all'agricoltura, mentre sono stati stanziati 13 milioni di euro per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Egitto. Cari ascoltatori, siamo così arrivati alla conclusione del nostro programma. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata e alla prossima puntata. Dalla Lucano vi abbiamo presentato il dossier economico, un programma a cura di Yasser Ahmed, presentato per voi stasera da Marco Albori. Amici di Radio Cairo, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata su Arte Veneziana, seguite sul palco di Natale. Finalmente, il sistema scolastico del paese era organizzato in due ordini parallelo. Il araba era destinato agli strati meno abbienti e non consentiva il proseguimento degli studi. Il secondo, costituito dalle scuole elementari pubbliche e private a pagamento, in francese e successivamente in inglese, era destinato agli strati sociali medio-alti e orientato agli studi superiori. La Costituzione del 1923 sancì l'obbligatorietà della scuola elementare e nei decenni successivi il sistema scolastico fu progressivamente unificato. Il diritto all'istruzione di base fu garantito però solo a partire dal periodo di Nasser, con l'affermarsi del principio di gratuità della scuola pubblica. In seguito alla riforma del 1953 e ai consistenti investimenti pubblici in trasformazione degli insegnanti e nelle infrastrutture, gli iscritti della scuola elementare aumentarono, portando l'Egitto a divenire già negli anni 60 uno dei paesi africani con il tasso di scuola di persone urbana più elevato. Le difficoltà economiche del paese, l'insufficienza delle infrastrutture e la radicale svalutazione dei salari degli insegnanti sono all'origine del declino della qualità dell'istruzione offerta nella scuola pubblica e hanno portato a un deferire della scuola privata a pagamento. L'accesso alla scuola dei bambini nelle zone rurali e nelle regioni settentrionali è inoltre ancora nettamente inferiore alla media del paese. Il tasso di scolarizzazione elementare dei bambini supera i 13 punti per le bambine. dare un segnale di prima ai bambini che frequentano il sistema formale. Esami al termine del quinto anno, un esame alla fine dell'ottavo anno consente di ottenere la licenza della scuola dell'obbligo. In base alla votazione ottenuta in questo esame, è possibile accedere ai vari tipi di scuola superiore. Supremo della Cultura del teatro regionale e la documentazione del teatro e del costume. Una lista di professori di teatro, di artisti, di scrittori, di rappresentanti degli organismi delle truppe teatrali partecipa a tale conferenza. Il centro culturale di Tahrir Lawan tiene una selezione di foto comprendente una collezione di foto della penisola del Sinai. Queste foto sono state fatte da un gruppo di giovani durante una lunga escursione in bicicletta nel Sinai. Un'escursione che è durata 17 giorni e le foto finiscono per la presenza e della loro peregrinazione. Vale con voi a questi termini la nostra puntata. Arrivederci la prossima settimana. Da Radio Cairo vi abbiamo presentato Panorama Artistico, un programma a cura di Piero Rossini, presentato per voi stasera da Marco Lori. l'anima ancora non c'è lui. Carissimi amici, buonasera. Dal 53 avanti Cristo ad oggi, per 27 anni, conoscitori e missionari, guerrieri e navigatori hanno percorso il cammino che parte dal Medio Oriente, passa per Baghdad, Samarcanda, attraversa la Cina e si conclude a Luoyang, oggi conosciuto come Via della Seta. Definizione data dal geografo e geologo tedesco Ferdinand von Richthofen nell'introduzione all'opera Provincia Oshin, pubblicata a Berlino nel 1907. E fin dall'inizio costosissimo tessuto dall'origine avvolta di mistero a permesso che gli scambi commerciali di profumi, spezie, oro, pelli, metalli, porcellane, medicinali cominciassero a fiorire grazie al viaggio di numerosi mercanti. Anche i romani vennero a contatto con la seta che chiamavano Serica, presentata dal lontano popolo dei Seri, come a Roma venivano chiamati i cinesi. Attraverso quello stesso percorso, intorno alla metà del primo secolo dopo Cristo, il buddismo fece il suo ingresso in Cina. Veniva chiamata la Via della Seta, era in realtà formata da un insieme di piste per montagne, porte e deserti, con delle diramazioni che si insistivano man mano ci si avvicinava all'Occidente. Qui infatti i stati erano già più numerosi e piccoli, e le condizioni ambientali permettevano ai viaggiatori di scegliere tra diversi itinerari. Queste vie, poco più che semplici sentieri, dovevano essere ritracciate dai viaggiatori perché dal seggio o dalla neve. Per i mercanti non era semplice affrontare un viaggio lungo queste piste. Uno dei problemi maggiori era costituito dagli ostacoli naturali. I sentieri lungo la montagna, ad esempio, erano stretti e scoscesi, difficili da seguire per uomini ed animali, soprattutto con il maltempo. Perdere l'orientamento, si rischiava di essere sorpresi da tempeste di sabbia e le condizioni climatiche erano difficili, caldo di giorno e freddo di notte. Era in ogni caso consigliabile viaggiare notte sempre, in modo da potersi orientare con le stelle. Un altro ostacolo naturale era rappresentato dai corsi d'acqua che erano attraversabili solo grazie ad un ponte o ad un vuoto. Il declino della Via della Seta cominciò con la concorrenza di una nuova arteria commerciale più rapida e sicura della Via di Terra. L'India e la Cina venivano raggiunte via mare. Da Radio Cairo avete appena ascoltato Enciclopedia Audio, un programma curato e presentato da Amici. Allora, orchestra del Bramante, ospita dal 10 ottobre 2013 al 10 febbraio 2014 un'importante esposizione incentrata sulla figura di Cleopatra, Alessandria d'Egitto 69 a 30 avanti Cristo, l'Egitto dei Tolomei, la vita appassionata di Cleopatra, la centralità della sua figura nelle vicende politiche dell'epoca e nel rapporto tra Roma e l'Egitto. Tutto questo viene raccontato attraverso l'esposizione di oltre 200 opere, provenienti dai principali musei nazionali e internazionali. Il percorso espositivo presenta aspetti della millenaria cultura egizia, irrisolvibilmente legata all'ambiente fluviale del Nilo, attraverso le vicende storiche che hanno visto intercorrere relazioni e interessi di vario tipo tra Roma e l'Egitto tolemaico. Si mostra le opere comprendono un mirabile collegio di arte e di storia, del suo distintore in granito, basalto e scisto, provenienti dalle cime del cavo d'Egitto, marmi dolci e minenti, alabastri, mosaici, policromi, affreschi, bronzi, terracotta industriale, oro e argenti, vetri, avori e gemme, riproducono in una caleidoscopica di impassibile scenografia con i luoghi e con i tempi. Il mio vocabolo di molti cavalli del mondo, descritto meravigliosamente in vari e finissimi mosaici e in brani pittorici ad affresco datati alla fine del primo secolo avanti Cristo, provenienti per lo più dalle città musuliane, una straordinaria popolazione di ambiente acquatico, tra cui ipopotami, coccodrilli, rane, anatre, selvatiche e ibis, insieme a fiori di rosa. Sospesi di papiro e pesci di ogni genere, descrive la fertilità delle sue spalle, unica al mondo. La sezione di taglio storico presenta i principali personaggi della complessa vicenda allo scadere della Repubblica Romana, raccontando gli avvenimenti che vedono protagonisti Cleopatra VII, Tolomeo XIV e Gneo Pompeo. La relazione dell'ultimo regino d'Egitto con Giulio Cesare, da cui nascerà Tolomeo XV Cesarione. Quindi Marco Antonio e Ottaviano, alleati e vendicatori dell'omicidio di Cesare. Infine la nuova coppia, Cleopatra e Marco Antonio, e la discordia tra quest'ultima e Ottaviano, l'erede legittimo di Giulio Cesare, per il potere assoluto a Roma. La rivoluzione finale vedrà suicidio Antonio Cleopatra e Cesarione assassinato per non andare Ottaviano. Avete ascoltato l'almanacco turistico di Giulio. Thank you.